se Franz dicesse il vero, se fosse già tranquilla e consolata. No, sento che non è, eppure non ha voluto che la ritrovassi ed ha lasciato vuota la capanna. L'odore è fuggito, volate via. Dove avrà posato ora che i rami sono senza fronde e i prati senza fiori? Tutta piangente come quella sera, arrivar piano piano e rivederla come la vidi in quella primavera. Sono ritornato, sono ritornato e resterò con te. Dorme il villaggio e no, siamo soli, soli, io tengo la sua testa sul mio cuore, ed è tutta una vita che finisce, ed è tutta una vita che I'm